Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ancora insieme con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, nuovamente un saluto a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi puntiamo l'attenzione su, ahimè, una cosa che è dolorosissima, che sono le tasse e tutte quelle gabelle che ci troviamo a pagare. Parlo per esempio della tassa dei rifiuti, parlo dell'aliquota dell'IMU che pesa su tutte le tasche di noi contribuenti e pesa anche in maniera variabile a seconda di dove abitiamo, ovviamente. Sì, parliamo proprio delle percentuali di incremento che queste tasse legate alle proprie abitazioni, la prima casa, la seconda casa, insomma un po' a quello che è il regno degli immobili, e abbiamo come cittadini subito in questi 4 anni, anche perché abbiamo visto anche un'evoluzione un po' del modo di pagare, ma anche un'evoluzione un po' nei termini, perché abbiamo visto anche qua tra IMU, mini IMU, TASI, TARES, insomma veramente ci stiamo dando il meglio del Made in Italy su queste tasse legate alle case, però vorrei dire come queste aliquote paradossalmente variano anche di percentuale, non solo in funzione di quelli che sono i provvedimenti approvati dal governo, ma variano anche in funzione un po' del colore politico delle giunte, perché poi alla fine questa ricerca emerge come certe giunte di un colore rispetto ad altre ci sia maggior propensione ad aumentare le aliquote rispetto a quelle minime stabilite, e questo può anche far riflettere probabilmente sulla capacità o meno di o garantire certi servizi oppure anche di amministrare un comune o di reperire risorse. Ecco, poi io credo che ci sia magari sì anche il colore politico degli amministratori, però poi bisogna capire qual è la situazione in cui ogni sindaco si ritrova a dover fare i conti della città e come un padre di famiglia deve far chiudere i buchi, no? Quindi poi alza o abbassa le varie tasse, insomma ricordo che ci sono anche delle condizioni dove l'IMU è stata, l'aliquota IMU è stata abbassata in alcuni paesi piuttosto che in altri, confinanti invece sia molto più alta, quindi dipende, no? Sì, dipende, e se noi andiamo un attimino a analizzare quello che è il rapporto del National Bureau of Economy di Cambridge, che è stato curato dagli italiani Alberto Lesina e Matteo Paradisi, si capisce come per esempio ci sono stati dei casi, per esempio a Roma, ecco, dove l'amministrazione retta da Ignazio Marino fa pagare l'addizionale più alta d'Italia. A Milano, per esempio, sono state aumentate numerose tariffe ed aliquote per le spese cimiteriali, in questo caso che è ecco, una cosa dove magari hanno voluto colpire tra le novità. Colpiscono quelli che non possono protestare, sono già morti. Sono già morti e soprattutto poi colpiscono anche in un certo stato d'animo in cui le persone magari si trovano anche tra virgolette beffati. E poi secondo l'associazione dei consumatori negli ultimi 4 anni la tassa per esempio dei rifiuti è aumentata del 22%. E chiaramente un aumento del 22% in 4 anni è un dato molto molto significativo, una tassa che non si paga più solamente sui metri quadrati ma sulla superficie e sul numero delle persone, ma sulla quantità di immondizia prodotta determinata anche dalla tipologia, e qua scopriamo per esempio come non so le fiorerie e le pizze al taglio sono tra le categorie che pagano di più rispetto ad altre che paradossalmente magari producono meno secco, quindi una tassa che sommata a tante altre alla fine ha avuto come unico risultato finale quello di vedere negli ultimi anni degli aumenti a 2 cifre di quelle che erano delle tasse che alla fine anche a nostro avviso almeno sulla prima casa non sarebbe giusto pagare, tenendo conto anche poi dell'aumento della rendita catastale del 60% che c'è stato qualche anno fa per effetto del governo Monti, che anche qua ha inasprito quelli che sono un po' gli importi. Sì, c'è da dire che bisognerebbe proprio cambiare tutto e rimodulare le tasse. Io ricordo l'esempio di un amico che aveva un salone automobilistico, quindi una superficie enorme, piena di macchine nuove, e dove produceva veramente pochissimi rifiuti e pagava cifre esorbitanti di tasse sui rifiuti. Insomma, questi sono dei particolari che andrebbero visti in questo caso e che fanno capire che ci sarebbe molto lavoro da fare. Sì, ci sarebbe molto lavoro da fare, ma soprattutto evidenzia come c'è una fantasia tremenda su colpire la casa e su colpire quello che è un bene primario e soprattutto un bene che alla fine noi diciamo assorbe un po' tutto quello che noi sostanzialmente andiamo a guadagnare in una vita di lavoro, perché se calcoliamo quello che la fatica che facciamo a mettere via, quello che paghiamo di mutuo, quello che andiamo a pagare di interessi e quello che andiamo a pagare di manutenzione anche per tenere e salvaguardare quello che è un alloggio, e chiunque ha un alloggio sa che insomma ogni anno bene o male c'è sempre da fare degli interventi di conservazione. Certamente infierire, che è l'unico termine che in questo momento mi viene in questo modo qua, io lo ritengo che sia una barbara scelta. Certamente, è un termine che secondo me ci sta a pennello, quindi te lo approvo. Quindi, Carlo, io ti ringrazio, ricordo sempre associazionedifesaconsumatori.it per avere contatto diretto con il sito dell'Adico. Grazie a te, alla prossima settimana. Grazie a te Francesco e un saluto sempre a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.